Siamo noi, gli schiavi del 2000, quelli che vanno avanti a fatica, senza invidia, ogni giorno una sfida, per la strada come grammi di guida. Chi è pigro non tira, chi tira non paga, è la storia dei raga di Plaza. Quelli che si fanno un culo così, per portare un po' di pane a casa, per fumarsi un po' di marijuana, per girare con la fidanzata, per comprare ai figli i vestiti. Non si guardano il TG e nemmeno amici, fanno sacrifici per un domani. Questi politici ridicoli gli alzerebbero le mani. Spera un domani migliore, forse altrove, dove la gente può guadagnare bene lavorando solo 6 ore. Ora la media è di 11 ore, per arrivare a fine mese devi pregare il Signore. Almeno lavori, pensa chi invece là fuori al freddo per pagare i debiti dei genitori. Per parlare del quartiere prima ci devi passare. Fra la mia gente passa delle cose che tu non vorresti nemmeno ascoltare. Figuriamoci viverle. La gente da onesta diventa una bestia, perché l'Italia è un covo di vipere. Ci vogliono opprimere. Quello che sai non è vero, quello che è vero non so se lo sai. Non credo a politiche clero, non guardo media, sento Rai. Per la strada troppi fiori appoggiati a un guardarai, e sta gente pensa solamente a farsi i cazzi suoi. Quello che sai non è vero, quello che è vero non so se lo sai. Non credo a politiche clero, non guardo media, sento Rai. Per la strada troppi fiori appoggiati a un guardarai, e sta gente pensa solamente a farsi i cazzi suoi. Quello che so, quello che vedo, non è mica finzione. Quando ti salva un credo, né pregare il cielo, si va avanti anche se piove. Zero scelte di scorta, una madre tira la cinghia ed un figlio che studia finisce comunque a bussare una porta. Si va sempre più indietro, altro che svolta. Vuota capitolo, sfoglia altre pagine, leggi il giornale. Altro suicidio di un padre ed un figlio in lacrime, fragile e stanco, che agisce con foga, cade nella droga, poi foga nell'alcol intanto. La mente che viaggia di colpo si inchioda, era soltanto una prova, la prova del grande salto. Molto stanco, quasi esausto con Franco, bollo in volo jumbo, devoto al canto. Io sto sperando che la ruota si metta a girare ogni tanto. Non in senso a te orario però, non voglio tornare indietro, lo so. Le braccia a pezzi che mi dolgono, mille problemi mi avvolgono. Lavoro, sudore e passione ti aiutano ad essere un uomo migliore. Trovare il calore, 4 ore, 8 ore di giorno non valgono quanto le ore passate col proprio amore. Di buon umore, la tua famiglia, l'ispirazione. Il sacrificio pesa di meno se solo ripensi ai sorrisi in questione. Quello che sai non è vero, quello che è vero non so se lo sai. Non credo a politiche clero, non guardo media, sento Rai. Per la strada troppi fiori appoggiati a un guardarai, e sta gente pensa solamente a farsi i cazzi suoi. Quello che sai non è vero, quello che è vero non so se lo sai. Non credo a politiche clero, non guardo media, sento Rai. Per la strada troppi fiori appoggiati a un guardarai, e sta gente pensa solamente a farsi i cazzi suoi. La gente ti morde, nessuno che abbaia. Ho imparato che un pitbull non sta tra i chihuahua. Nella street fiori di loto, fiori dell'odio, la paura di ogni uomo. Lavoro, famiglia, cash, sfiorare l'ignoto. E senti una madre, un urlo straziante. Muore un ragazzo col contromuro, alcol e fumo dentro al sangue. E dentro me penso inshallah, dentro me tutto cambierà. Mondo bastardo, da un lato le Bahamas, dall'altro chi lavora 11 ore per pagarsi le rate all'auto. Qua problemi in vasta gamma se non ti sposti. Sento rotto ragazzi in riga, Vasco Rossi. Sta vita è un tumore per i nostri piani. Viviamo malati per poi morire sani. Muori tra falsi amici, tra parassiti e bitches, sognando il modo di essere felici. Quello che sai non è vero, quello che è vero non so se lo sai. Non credo a politiche clero, non guardo media, sento Rai. Per la strada troppi fiori appoggiati a un guardarai, e sta gente pensa solamente a farsi i cazzi suoi. Quello che sai non è vero, quello che è vero non so se lo sai. Non credo a politiche clero, non guardo media, sento Rai. Per la strada troppi fiori appoggiati a un guardarai, e sta gente pensa solamente a farsi i cazzi suoi.